difenderla. E c'è progresso quando la difendiamo, perché noi, il popolo, abbiamo il potere di costruire un futuro migliore. E quando l'essenza della nostra democrazia era in gioco durante queste elezioni, quando c'era in gioco l'anima dell'America e il mondo ci guardava, voi avete dato vita ad un nuovo giorno, una nuova alba per l'America. Allo staff della nostra campagna elettorale, ai nostri volontari, a questo grandioso team, va il nostro grazie per aver coinvolto il più alto numero di persone che si sia mai registrato in questo processo democratico e per aver reso possibile questa vittoria agli scrutatori dei seggi, alle autorità che si occupano di elezioni in tutto il paese, che hanno lavorato senza sosta per garantire che ogni voto venisse contato. Il nostro paese vi deve moltissima gratitudine. Avete protetto e difeso l'integrità della nostra democrazia e ai cittadini americani che rendono questo paese quello che è, grazie per esservi recati alle urne avendo un'affluenza record e facendo sentire la vostra voce. E so che siamo in un momento difficile, soprattutto gli ultimi mesi sono stati difficili, la sofferenza, il dolore, le preoccupazioni, le battaglie quotidiane, ma siamo stati anche testimoni del vostro coraggio, della vostra resilienza e della generosità del vostro spirito. Per 4 anni avete marciato, avete organizzato manifestazioni per l'uguaglianza, per la giustizia, per le nostre vite, per il nostro pianeta, e poi avete votato. Si percepisce moltissimo l'emozione di Kamala Harris e naturalmente anche la soddisfazione per la grande vittoria. Siete riusciti a consegnare un messaggio molto chiaro: avete scelto la speranza, avete scelto l'unità, avete scelto l'onestà, avete scelto la scienza e sì, avete scelto anche la verità. Avete scelto Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. E Joe è una persona che sa guarire, che sa unire. Ha una mano ferma, esperienza, ha una persona che ha vissuto sulla sua pelle cosa significa la perdita e questo gli ha dato uno scopo nella vita e questo fa sì che anche il nostro paese veda in che direzione andare. Un uomo con un cuore grande che ama tutti quelli che sono intorno a lui, ama sua moglie Jill che sarà un incredibile First Lady. È il suo amore per Hunter, per Ashley, per i suoi nipoti e per tutta la famiglia Biden. E anche se ho conosciuto Joe quando era vicepresidente, l'ho conosciuto poi come il padre di Bone, mio caro amico che vogliamo ricordare qui oggi. E a mio marito Doug. I nostri figli, Cole, Ella, mia sorella Maya e tutta la nostra famiglia, vi amo più di quanto le parole possano dire. Siamo davvero grati a Joe e Jill per aver dato il benvenuto alla nostra famiglia, averla accolta nella loro. E anche voglio ringraziare mia madre, la donna che ha la più grande responsabilità della mia presenza qui oggi, è sempre con noi nei nostri cuori. Quando è arrivata qui dall'India all'età di 19 anni, sicuramente non immaginava che ci sarebbe stato un momento come questo, ma credeva fortemente in un'America dove momenti come questi sono possibili. E quindi penso a lei, penso alla generazione di donne nere. emozionatissima Kamala Harris e naturalmente una futura vicepresidente molto sorridente sta ringraziando gli Stati Uniti d'America e la sua famiglia per l'ottenimento di questo grandissimo successo. Noi restituiamo subito la linea a Max De Tomassi con Stereo Notte Brasil, a risentirci a tra poco quando comincerà a parlare il futuro presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Stereo Notte. Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo afuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda de filo. Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo. D'asilo, quando l'amore è l'unica strada possibile. Asilo, Mon Laferte con Jorge Drexler, album di Jorge Drexler intitolato Salvavidas de Hielo, cioè Salvagenti di Ghiaccio. È un album che è stato interamente realizzato con il solo ausilio di uno strumento, la chitarra. È stata suonata come percussione, è stata suonata come chitarra classica, è stata suonata come chitarra elettrica. Avete sentito soltanto due voci, Mon Laferte, appunto star della musica cilena, con Jorge Drexler, uruguaiano ma che vive in Spagna da tantissimo tempo, vincitore del premio Oscar per la canzone finale di Diari di motociclette di Walter Salles. Questo brano si intitolava Asilo. La musica che ci dà tanta gioia, tanta armonia, che ci fa sperare, così come i discorsi che stiamo seguendo in televisione, e che ci fa sperare in un futuro migliore, che ci amenizza i dolori, non solo la musica ma anche i temi, anche la poetica. E c'è un brano scritto da Maria Grever, una grandissima autrice messicana di molto tempo fa, che ha scritto un brano intitolato Alma Mia, che vuol dire anima mia, ovviamente, e che vorrei tradurvi rapidamente per farvelo poi ascoltare nella interpretazione di uno dei più grandi crooner del mondo latinoamericano, Bola de Nieve. Però mentre io stavo iniziando a parlarvi di questo testo, vedo che arriva Joe Biden sul palco ed è evidentemente pronto al suo discorso, quindi da un momento all'altro ci saranno gli amici del GR1, sento già la porta che si apre e che ovviamente commenteranno questo primo discorso del Presidente degli Stati Uniti, Roberto Zampa. Ci possiamo sentire una canzone, senz'altro. Sono le 2.39, in questo momento Biden inizia il suo discorso. Roberto Zampa. Ecco, proprio in questo momento ha cominciato a salutare gli astanti, noi diamo immediatamente la linea al futuro presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Delaware! E anche gli abitanti del Delaware. I see my buddy. Vedo il mio amico senatore Tom Carper tra il pubblico, credo che ci siano anche qualche governatore, altri rappresentanti del congresso, c'è anche Ruthen e c'è anche l'ex governatore dello Stato, ma c'è anche mia cognata, c'è anche mia sorella Valerie. The people of this nation have spoken. I cittadini di questo paese hanno parlato. E ci hanno dato una vittoria chiara, una vittoria che convince, una vittoria per noi, per il popolo, con un'affluenza alle urne che non si era mai vista prima. E noi che come candidati abbiamo ricevuto oltre 74 milioni di voti. Well, I must admit it surprised me. Devo ammettere che la cosa mi ha sorpreso. E stasera vediamo questo paese, cittadini, tutto il paese, ma che dico tutto il paese, in tutto il mondo, che ci danno dimostrazioni di gioia, che rinnovano la loro fiducia nel domani, affinché sia un domani migliore. E sono davvero onorato dalla fiducia che avete deciso di porre in me. Ho promesso di essere un presidente che non vuole dividere ma vuole unire, che non vede stati rossi, stati blu, ma vede solo gli Stati Uniti. Con tutto il cuore vi dico che grazie a questa fiducia che avete riposto in me voglio andare avanti, ed è per questo che credo che l'America sia fatta di persone. Ecco, questo è un primo punto fondamentale della futura politica di Joe Biden. Facciamo tutti insieme, creiamo un domani migliore per gli Stati Uniti d'America. Non ci saranno più stati rossi, non ci saranno più stati blu, ci saranno solo gli Stati Uniti d'America. Per essere uniti qui, in questo paese, è la missione della mia vita. E così tanti milioni di americani hanno votato per questo piano, per questo programma. E adesso è arrivato il momento di rendere una realtà questo programma. Ed è esattamente quello che intendiamo fare. Signori, come ho già detto molte volte, sono il marito di Jill. And I would not be here. E non sarei qui senza il suo amore, il suo totale sostegno. And my son Hunter and Ashley, my daughter. Anche il sostegno di mia figlia Ashley, di mio figlio Hunter, di tutti i loro figli, dei miei generi, delle mie nuore. Di tutta la mia famiglia, sono il mio cuore. Jill ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento, all'educazione, perché è esattamente questa la sua essenza. Per gli educatori americani, per gli insegnanti americani, questa è davvero una giornata memorabile, perché ci sarà uno di voi nella Casa Bianca e Jill sarà un'ottima, eccezionale first lady. Sono davvero orgoglioso di lei. Avrò l'onore di avere al mio fianco un eccezionale vicepresidente, Kamala Harris, che farà la storia. Ha fatto la storia perché è la prima donna nera con origini indoamericane, figlia di immigrati, che viene eletta per la prima volta come vicepresidente. Quindi non venite venitemi a dire che c'è qualcosa di impossibile negli Stati Uniti. Era da tempo che avremmo dovuto fare questo passo. E stasera voglio ricordare quelli che hanno combattuto duramente per tanti anni affinché una cosa come questa potesse succedere. Ancora una volta, l'America è andata verso la giustizia. Kamala e Doug, siete la mia famiglia, siete ormai parte della famiglia Biden e non avrete scampo. A tutti quelli che hanno lavorato come volontari, che hanno lavorato nei seggi, nel bel mezzo di una pandemia, che avete contato i voti, meritate un grazie speciale non solo da me ma da parte di tutto il paese. E anche al team della mia campagna elettorale, tutti i volontari che hanno dato così tanto per realizzare questo sogno, per far sì che questo momento fosse possibile, ed è a voi che devo tutto. E tutti quelli che ci hanno sostenuto, sono orgoglioso della campagna elettorale che siamo riusciti a mettere insieme, della coalizione che abbiamo costruito, la più ampia. Approfitto di questa fase interlocutoria di ringraziamenti da parte di Joe Biden per fare una domanda al nostro grande esperto di musica, Max De Tomassi. Direi che negli Stati Uniti quasi tutto il mondo della musica, dell'arte, anche del cinema, del teatro, si è un po' quasi integralmente schierato per Joe Biden. Sì, dopo aver contestato tanto Trump, adesso finalmente si metterà al lavoro, nel senso che la creatività arriva anche a causa di questa grande incapacità inclusiva dal punto di vista sociale e politica di Biden, il fatto stesso che la vicepresidente è figlia di immigrati, insomma tutto questo sicuramente favorirà una nuova produzione con una bella prospettiva della cultura in generale americana. E adesso voglio che anche il governo... Vediamo naturalmente la linea al futuro presidente degli Stati Uniti. Presidente Trump, capisco che possiate essere delusi, anche io ho perso un paio di volte qualche gara piuttosto importante, ma adesso dobbiamo darci una possibilità reciproca. È il momento di mettere da parte la retorica aspra, di abbassare i toni, di incontrarci di nuovo, di ricominciare ad ascoltarci e fare dei progressi per smettere di trattare i nostri rivali come nemici. Non sono rivali, non sono nemici, sono americani, proprio come noi. La Bibbia ci dice che c'è una stagione per ogni cosa, un momento per costruire, un momento per distruggere, un momento per seminare, un momento per raccogliere e soprattutto un momento per guarire. Questo è il momento per l'America di guarire. Ora che la campagna elettorale è finita, qual è la volontà delle persone? Qual è il nostro mandato? Io credo che sia questo, ovvero che l'America ci ha chiamati per restaurare, ripristinare le forze dell'onestà, la forza della scienza, la forza della speranza, perché dobbiamo combattere battaglie dure di questi tempi, una battaglia per controllare un virus, per riportare la prosperità economica, per garantire la sanità, l'accesso alla sanità alle vostre famiglie, per eliminare il razzismo sistemico, per eliminare il razzismo da questo paese. E anche la battaglia per salvare il nostro pianeta, affrontando con tutte le nostre forze la sfida del cambiamento climatico, la battaglia di ripristinare l'onestà, di difendere la democrazia e dare a tutti in questo paese una possibilità. È quello che ci chiedono i nostri cittadini, una possibilità. Il nostro lavoro inizia con riportare sotto controllo il Covid. Non possiamo riparare, rilanciare l'economia o vivere nuovi momenti, costruire nuovi ricordi. Non possiamo partecipare ai compleanni, i matrimoni, tutte le cerimonie delle nostre vite a meno che non riportiamo sotto controllo questo virus. Lunedì un gruppo di virologi, di esperti, si riuniranno per darci i consigli giusti per capire quali saranno le misure da adottare e lo faremo. Biden torna su uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, ovvero la lotta al Covid, e lo sta facendo davanti ad una platea di persone integralmente coperta da mascherine. Per essere più preparati, non risparmierò nulla nulla. Mi impegnerò, mi sforzerò al massimo per combattere e sconfiggere questa pandemia. Io sono un democratico, orgoglioso, ma governerò come presidente americano. Lavoro duramente e lavorerò duramente, più duramente per quelli che non hanno votato per me, ma sarò al servizio anche di quelli che hanno votato per me. Mettiamo fine a questa demonizzazione. Cominciamo a mettere fine a tutto questo adesso, subito. Il rifiuto dei democratici e repubblicani di cooperare non è una forza misteriosa che non può essere controllata, è una decisione, è una scelta che facciamo e possiamo decidere di non cooperare così come possiamo decidere di cooperare. E credo che questa sia parte del mandato che mi è stato dato, assegnato dai cittadini americani. Gli americani vogliono che collaboriamo nei loro interessi ed è questa la scelta che voglio fare ed è per questo che faccio appello al Congresso, sia democratici sia repubblicani, di fare la mia stessa scelta. La storia americana è piena di opportunità che sono state raccolte, anche se troppi sogni sono stati posticipati per troppo tempo, e dobbiamo fare delle promesse a questo paese che possano essere mantenute, delle promesse per tutti, a prescindere dalla religione, dall'etnicità, dalla disabilità. L'America è sempre stata plasmata da momenti importanti, da momenti storici, durante i quali abbiamo preso decisioni importanti che riguardavano la nostra identità, chi eravamo e chi volevamo essere. Lincoln nel 1860 per salvare l'Unione, Franklin Delano Roosevelt nel 1932 che credeva in questo paese e gli ha dato il New Deal, JFK nel 1960 che rompeva una nuova barriera, e 12 anni fa, quando Barack Obama ha fatto nuovamente la storia dicendo "Yes we can, possiamo farcela". Ancora una volta siamo in un momento storico, abbiamo la possibilità di costruire una nazione fatta di prosperità che ha uno scopo, possiamo farlo, lo so che ce la possiamo fare. Per troppo tempo si è parlato della battaglia per l'anima dell'America, dobbiamo ripristinare, ricostruire l'anima dell'America. La nostra nazione è plasmata dalla battaglia tra la ragione e l'impulso, e dobbiamo trovare un equilibrio, perché se non lo troviamo non riusciremo a trovare una soluzione. Dobbiamo far sì che la ragione vinca, e stasera tutto il mondo ci guarda e dobbiamo dare il nostro meglio, perché l'America è un faro per il resto del mondo, e dobbiamo guidare non solo con il nostro esempio, non solo con il potere dell'esempio, ma l'esempio del potere. Ho sempre creduto, e molti mi hanno sentito dirlo prima, ho sempre creduto che si può definire l'America con una sola parola: possibilità. Credo che in America tutti abbiano un'opportunità, perché se questa opportunità viene data alle persone, allora i sogni si realizzano. E io credo nelle possibilità che questo paese offre, e guardiamo sempre avanti a noi, sempre al futuro, un futuro dove l'America è più libera, più giusta, un'America che crea posti di lavoro con dignità, con rispetto, un'America che cura le malattie come il cancro, come l'Alzheimer, un'America che non lascia nessuno indietro, un'America che non si arrende mai, che non cede mai. Questa è una grande nazione, è sempre stata una grande nazione, siamo persone buone, questi sono gli Stati Uniti d'America. E non c'è mai stato nulla che non siamo stati in grado di fare se lo abbiamo fatto insieme. Nelle ultime settimane, come stanno ascoltando, Biden ribadisce più volte davvero uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè l'unità. Non sarò assolutamente solo il presidente di chi mi ha votato, il presidente dei democratici, sarò il presidente di tutti gli americani, sarò il presidente anche dei repubblicani. Loro non sono i nostri avversari, i nostri nemici, da ora in poi sono solo americani. Con voi, con il cuore. Spero che la speranza vi dia un po' di sollievo. E la speranza è quella che vi solleverà sulle ali, che vi farà vedere una nuova alba e che vi terrà sul palmo della mano. E adesso, insieme, grazie alle ali di quest'aquila, possiamo guardare al futuro, possiamo con il cuore, con una mano ferma, con la fede nell'America, negli uni negli altri, con l'amore per questo paese, con la sete di giustizia, possiamo essere la nazione che possiamo, sappiamo di poter essere. Una nazione unita, una nazione forte, una nazione guarita. Gli Stati Uniti d'America, signore e signori, mai, e poi mai, non sono riusciti a fare qualcosa quando siamo Stati Uniti. Quando andavo a trovare mio nonno, mi diceva sempre: Joey, mantieni la fede. E poi mia nonna aggiungeva: diffondi la fede. Che Dio vi ami tutti, che Dio benedica gli Stati Uniti d'America e che protegga i nostri soldati. Grazie, grazie, ancora grazie. Ecco, abbiamo appena ascoltato le parole, il primo grande discorso del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, anche lui emozionato, ma direi un'emozione molto più controllata. Insomma, sono più di 40 anni che Biden fa politica ad altissimi livelli e quindi è un uomo assolutamente in grado di sopportare l'emozione. Ora sta salendo sul palco sua moglie, ascoltiamo ancora. C'è un abbraccio molto commovente. Si limitano ai saluti. Sentiamo anche un commento del nostro collega Max De Tomassi. Ma io trovo che sia stato un bellissimo discorso. Ho notato che per esempio ha detto di essere il presidente della Repubblica di coloro che hanno votato contro, prima ancora di dire che è stato il presidente di coloro che l'hanno supportato e appoggiato. Mi è sembrato estremamente positivo il suo discorso, inclusivo, che ci fa sperare in un grande futuro negli Stati Uniti e, per essere così importante, anche per il resto del mondo. Ecco, lui ha anche detto: basta alla retorica aspra, dobbiamo assolutamente abbassare i toni e dobbiamo farlo da ora, da subito. Ora, perentorio, mi è piaciuto. La domanda che sorge spontanea è naturalmente quale sarà la risposta di Trump, dell'attuale presidente degli Stati Uniti, e in genere di tutto il mondo repubblicano, di chi insomma ha votato Trump. Questa un po' la scommessa per i prossimi mesi. Noi ridiamo naturalmente la linea, certo, al nostro Max De Tomassi e a